mari e cosse lo nase prandesto e la mu conta cosmo fene te coro c'è c'ora da bobbia tragudao e a tir te tocca lo miedo era